Allora, benvenute, benvenuti nel frattempo che si sedono tutti, che quelli fuori finiscano di fumare, di fare la tessera, nanana. Giovanni, puoi introdurci alla rassegna della montagna analoga? Voilà. Benvenute a questo quarto incontro, è spettacolo, siamo già a dicembre, siamo ancora a dicembre, questo è sempre tutto relativo, con noi Stefano Fregonese, che... Presento io. Presenti tu, sì, e... Adesso, vabbè, c'hai ragione, io ho finito quello che dovevo dire. No, posso dire che ci riprendiamo poi a gennaio, una volta al mese, come sempre. Montagna analoga, parliamo di montagna e non solo, qualsiasi concetto relativo, analogo e anche qualche volo pindarico ogni tanto. E stasera tanti, stasera perfetto. Parecchi. E niente, io il mio l'ho esaurito, insomma. Allora vado. Allora, ho deciso di presentare così Stefano, nonché quasi padrino, in quanto conosco sua figlia dall'età di 6 anni. Allora, Stefano, cioè questa sera per la rassegna della montagna analoga abbiamo deciso di invitare Stefano Fregonese, che è uno psicanalista, psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché presidente della cooperativa sociale Spazio Pensiero e anche ovviamente alpinista, motivo per cui si trova qui oggi. Autore del libro Una corda ben fatta su, di cui dopo parleremo in parte, forse libro per la rassegna, perché all'interno della rassegna diamo anche consigli di lettura e ogni mese quando poi facciamo il passeggio sociale facciamo tipo club del libro in cui parliamo della lettura del mese. Quindi niente, Stefano alpinista per passione e ci racconterà la sua esperienza attraverso una serie di aneddoti che ha unito in una raccolta che ha deciso di chiamare, se non mi sbaglio, il racconto delle 100 vie. Per cui lasceremo la parola a lui che ci leggerà una serie di aneddoti e dopodiché apriamo un po' un dibattito, domande, curiosità, per cui sentitevi libere, liberi di intervenire. Grazie. Ho detto giusto? Perfetto. Allora, buonasera. Buonasera. Pensavo, e se alla mia corda foste legati voi, giovani e meno giovani, incuriositi dalle affabulazioni di un vecchio alpinista, ma disposti più che all'ascolto, all'incantamento, a farsi cullare dalle immagini evocate dalle parole e non dai significati esse incardinati, inclini a trasognare le vite altrui, farle proprie e viverle per il tempo del racconto, potrei... se alla mia corda foste legati voi, potrei in quel caso raccontare delle 100 cime raggiunte nel corso di una vita e di ognuna ricordare quel tanto di epico e straordinario che si ricava da una pietra smossa e fatta inavvertitamente ruzzolare fino a urtarne un'altra insieme provocando una piccola frana di ricordi che cozzano gli uni con gli altri per precipitare fragorosamente tra le strette pareti di un canalino, diffondendo nell'aria puzza di zolfo ed angoscia per tutto quel che si è lasciato e perduto nel corso di una vita, perché la pietra, come il ricordo, procede solo in una direzione e porta con sé verso l'abisso il malcapitato che vi ha cercato appiglio e sostegno. E potrei quindi raccontare di quel padre, potrei raccontare di quel padre che sul Piz Chavazes, gruppo del Sella, precipitò di pietra in pietra sul figlio adolescente che ne reggeva l'inutile e disancorata corda, franando su di lui ma mancandolo d'un soffio, quel soffio che gli usciva dal torace proprio mentre a metà del volo cercava lo sguardo del ragazzo più incredulo che angosciato, anelando prima di schiantarsi al suolo al perdono per averlo tradito, come tradisce un padre che muore per una futile distrazione. E di quel ragazzino che chiamavamo Cina e con cui eravamo in effimera e fraterna confidenza finché non corse voce che era precipitato dalla cresta della Manera. Odistenio, che sui Monfalconi saliva in libera, ma quel giorno, anni dopo, si assicurò con la corda per essere certo di non cadere sull'impiantito del garage, dopo aver scalciato di sotto i piedi una sedia incerta, come la sua vita di orfano. E dovrei dire, della prima al Fayeron, a far da secondo a Sisto, che saliva con la rapidità di un camoscio e la leggiadria di uno scoiattolo, mentre continuava a gridare a me, che stavo sotto, «Sasso! Sasso!» ed Ivo, che sulla via degli Svizzeri, alla nord e la ovest, invece sussurrava parole dolci e suadenti ai chiodi e agli skyhook, mentre a me urlava «Tieni! Tieni! Catroia, tieni!» E di Mario, che d'estate e d'inverno scendeva i ghiaioni del Raut con gli sci ai piedi, scivolando indifferentemente sulla neve e sulla gera, la ghiaia. O del Pupin, che sul Gerin, traditore assassino di un canalino delle Cime Bianche, prese l'abbrivio e se lo zaino non si fosse incastrato tra due pietre sarebbe volato 600 metri sotto. E dovrei raccontare dell'amore fatto con Chicca ai piedi del campanile di Valmontanaia e della notte passata alla Diaccio su Cimatoro e della sassaiola con cui un intero battaglione di alpini mi bombardò per un eterno quarto d'ora sul Chiadenis, loro passando sulla cresta e io sulla via con Mario, e dei fantasmi che sempre mi accompagnano sulle cime e non solo sullo stregato sas della stria, prendendo sembianze di gracchi, e del fulmine che mi rincorse giù dalla cima della Mojazza e della slavina scesa dalla Palantina che mi sovrastò come l'onda la testa di un surfista, e dei prati di stelle alpine sulle pendici del Triglav e della vista mozzafiato dagli strapiombi del Gran Muro sul sas della Cruche, e di quella mattina quando prima dell'alba muovemmo verso lo zoccolo che salimmo slegati cercando di arrivare il prima possibile all'attacco della via, arrampicando poi il cammino di destra, ma già il fatto di essere un gruppo di tre cordate inevitabilmente ci attardò, seppur sarebbe stato inutile essere partiti ancor prima dal rifugio, perché sulla cengia trovammo segni di bivacco e all'attacco della Messner al Gran Muro erano tre le cordate in coda, mentre una quarta era impegnata più su all'altezza del traverso a far da tappo. E quando finalmente due di noi, Sandro e Roberto, attaccarono, erano le due del pomeriggio e dietro al Pizzo Boè il cielo mutava colore, che è un muto segno tale quale a quello che l'impiegata delle poste manda alla gente ancora in fila appendendo il cartello sportello chiuso. Non ci rimase che scendere da dove eravamo saliti, ricordo un paio di doppi avventuroso e una scarica di sassi che mi portò via gli occhiali. Ricordo però il piatto di uova, specche e patate al rifugio. E dovrei dire, se voi foste attaccati alla mia corda e foste nell'umore di starmi ad ascoltare, dovrei dire dei sette cieli stellati che precipitarono sulla Torre Venezia la notte prima di scalarla col Visentin, e dell'amore selvaggio con Laura all'ombra di Cima Meluzzo, sulla cima del Monte Rite, mentre gli dei scaricavano strali, fulmini e saette sulla corona di vette che gli stanno intorno, o con Valeria, languida e aspra come le crode dei tre scarperi che ci guardavano impudenti, e con Cristina per far pace sotto la civetta, e dovrei raccontare dei primi tiri sul Diedro Soravito a Cima Meluzzo, fatti per scommessa di corsa e slegati per attaccare il passo chiave della via all'inizio del terzo tiro da capo cordata, e della reprimenda da parte dei veci per esserci fatti sentire litigare salendo la via Pacifico a Croda Cimoliana, in un ambiente dove sacramentare è scontato, ma il turpiloquio è sconveniente. E delle due ore buone passate alla base della Zanetti Parizzi, al campanile del Van Montanaia, dopo averla scalata e ridiscesa, a cercare i quattro chiodi nuovi rimbalzati nel vuoto, uno dopo l'altro, al primo colpo di martello sferrato dal Brusa, che voleva rinforzare la protezione sul passaggio chiave della fessura gialla al quinto tiro, cosa, quella d'aver perso i chiodi nuovi, da farlo così incazzare che, mollato il martello, ripartì dimenticandosi di farsi cura sui due vecchi chiodi già piantati. E dovrei dirvi delle vertigini e dei mancamenti con cui la malattia si annunciò a Mario sulla Palla Bianca e di come gli prestai la spalla per discendere i 1000 metri che ci separavano dalla valle come due reduci di una guerra per lui ancora tutta da combattere. E dei rifugi sulle zampe di gallina delle vedrette di Ries che costrinsero Alessia e Matteo, bambini, a sfidare la Baba Yaga per farci ospitare, o della piastrina trigonometrica posta sulla cima del Corno Grande da mio zio alpino guastatore, ancora lì 50 anni dopo, davanti ai miei occhi, e ancora del bramito del cervo dal mastoso palco estivo che venne a sfidarmi nella notte mentre campeggiavo alle pendici del Monte Porze, delle ciocche di vino e grappa nei rifugi, memorabile quella del Capodanno dell'83, smaltita nella notte sul couloir gelato che porta in cima al Duranno, con il Brusa che si fermava a raccontare le sue avventure con le sciampiste padovane, e dell'antro dell'orso speleo, delle conturines, di cui i paleontologi avevano rimosso le ossa, ma non lo spirito selvaggio e ferino che aleggiava nell'aria antica e immobile. Orso del cui racconto il ritmo cadenzava il passo di Tito Bambino sull'interminabile salita alla cima della Varella, e delle giovani madri spagnole che con le loro figlie impuberi e malmostose si persero di primo mattino tra i canaloni di cima dei Bois, per uscirne poco prima dell'imbrunire con la pelle vizza e lo sguardo stanco di 100 anni. O di quel tale, attraversato da un fulmine sulla cima del Pinedo, del Piolsa, sopra Clout, che continuò a camminare per una decina di metri prima di cadere al suolo col suo bel buco tondo sulla calotta del cranio e l'altro sul calcagno da cui uscì lo strale. Storia di cui si diceva, salendo a Punta Begarelli, una delle cime dei Vieres dedicate a Luigi Giordani, detto Bigarel, guida clautana da altri tempi, salendo noi per le vie aperte dal pronipote su per cenge e cammini di modesta difficoltà, dove all'improvviso trovavi un tiro segnato quinto più che non salivi se non eri avvezzo almeno al 6C, e del Monte Vandalino, poco più di un montagnozzo, dove i pastori vanno a pascolare le pecore e raccogliere il sairas per avvolgervi il formaggio, e dalla cui cima si gode una spettacolare vista sulla Val Pellice e sulla piana piemontese, in cui spicca come un brufolo sulla pelle di un adolescente la montagnetta di Cavour, e più a sud, dove invece si staglia nella sua senile solitudine il Monviso, e a nord-est, nei giorni di gloria, il gruppo del Rosa, del Monte Vandalino, dovrei dire di lei, la mia Beatrice d'allora, che dall'empireo della cima mi condusse a ritroso al purgatorio delle umane passioni e poi all'inferno dell'espiazione di colpe di cui ero inconsapevole, a parte una, quella assai grave, d'averla trascinata su per la comici del torso a Punta Col de Varda, nei Cadini di Misurina, sulla cui fessura a metà parete si consumò la tragicommedia dell'amor montano, dove lui, il Pigmalione, porta lei a scoprire le meraviglie della selvaggia natura alpestre, a lei orrida e spaventevole, e saltando di cima in cima e di compagna in compagna passerei a raccontare delle svogliate passeggiate domestiche attorno al Sassolungo, con lo sguardo strabico, un occhio a ritrovare la via per la cima percorsa con Mario qualche anno prima e l'altro al piccolo Tito, cui raccontavo le quotidiane vicende familiari trasfigurandole in avvincenti favole di animali, di orsi, volpi, lupi, marmotte, in lotta tra loro contro rapaci aquile e serpi infide. E per rimanere in tema di animali, racconterei di quei camosci che mi mostrarono la traccia per salire un impervio canalone sulla Gardenaccia, scortandomi come un drappello di guardia, e del gallo cedrone che sulla stessa montagna cercò di allontanarmi a colpi d'ala, e della marmotta del Monte Castello che col suo fischio mi avvisò della vipera che serpeggiava tra le erbe e le rocce dove stavo per metter la mano. E racconterei delle ferite inferte dal vento ai boschi centenari e delle cataste di tronchi che si accumulano da anni ormai sulle pendici e ai bordi dei sentieri del Cadore, del Fodom, del Livinallongo, del Marebbe, dopo che le strie, le streghe e gli strighi scatenarono la tempesta nell'ottobre del 2020, e del ghiacciaio della Marmolada, così solido nel 78 quando lo salì e tanto fragile quando crollò nel 2022 spazzando via anime e corpi, e di tutto farei metafora di quegli eventi che nel corso della mia vita mi hanno visto minacciato e ferito, difeso e allerta, aggredito, travolto, tradito e poi in salvo, riscattato, scampato al pericolo, e ancora racconterei dentro e fuori di metafora come passai oltre gli strapiombi che improvvisi la vita ci apre sotto i piedi e quelli da cui stavo per cadere, come sul fatidico passaggio della Carlesso alla Torre di Valgrande o sul tetto della Irma al Piz Chavazes, poco dopo che quel padre era precipitato a pochi metri di distanza e la gamba ancora mi tremava e le forze mi mancavano, che la paura altro non è che la consapevolezza dell'io d'essere dove siamo. Come quando realizzai che se i polpastrelli delle mani o la mescola delle Mariacher avessero ceduto, sarei scivolato per 40 metri sulle placche della Meissner-Salz delle SNU prima di fermarmi, ammesso che il chiodo avesse tenuto, come tenne invece il chiodo di una delle 100 calate in doppia dell'interminabile discesa dalla Torre Venezia, almeno fino al momento in cui decise di sfilarsi dalla fessura e seguire la corda che stavamo recuperando. Visentin ed io. Il pittore. E a proposito di interminabili discese dovrei dire delle parole scambiate col gestore del Vazzoler, rifugio Vazzoler, quando tornammo Mario ed io dalla Tissi alla Trieste, e della discesa che durò una vita, così che quando arrivammo al rifugio era la luna e non il sole a illuminare il sentiero e noi sembravamo due operai usciti dal turno in catena di montaggio ai quali un controller spietato non aveva lasciato nemmeno il tempo di una pausa per pisciare, sebbene non avessimo più una goccia in corpo, perché arrivati in cima l'acqua dell'unica borraccia era già finita, il sole e il vento ci avevano asciugato come panni stesi, la pelle secca come il calcare a cui cercavamo di stare attaccati, con quelle 20-30 doppie da armare e disarmare, sperando che la corda non si incastrasse, sperando che mentre la recuperavamo non smuovesse una pietra più grossa di quelle che il casco poteva sopportare, o che non ce ne mollassero giù di pietre i due ragazzi scozzesi che ci lasciarono passare davanti già alla terza calata, ricambiando noi la cortesia, permettendo loro di usare la corda già armata, la doppia già armata con la nostra corda un paio di volte, finché si attardarono stanchi, si vedeva che più di noi erano stanchi, perché non sali la Trieste, la Torre Trieste, senza lasciare sulla pietra ogni caloria del tuo corpo, ogni fibra dei tuoi muscoli, conservando solo le energie per armare e disarmare, scendere in doppia e di tanto in tanto darsi una voce, Mario ed io, che di più in quei momenti non era necessario, bastava uno sguardo per dirsi quanto fossimo soddisfatti, ma anche per ricordarci che volevamo arrivare al rifugio prima che qualcuno si allarmasse, anche se, pensavo, ormai non erano più i tempi in cui i gestori prendevano nota di chi era in parete, chi era al rifugio e chi perso chissà dove, come i due scozzesi di cui non sentivamo più nemmeno le voci, ma dei quali avevamo notizia da qualche pietra che cadeva e sentivamo sibilare nel colatoio. «Bravi», ci disse il gestore. «Vanno tutti sulla Carlesso e poi tornano indietro la maggior parte, oppure tocca andarli a prendere sulla Carlesso, e sulla Carlesso è dura anche andarli a prendere. Mi sembra di vederli anche da qua, che dalla cengia guardano in su, guardano l'orologio, guardano noi qua giù, indugiano, scrutano il cielo e sperano in una nuvola un po' più scura che li assolva, poi prendono la cengia e si ritirano. Qualcuno continua, ma sono in pochi, solo 4 cordate l'anno scorso, 2 quest'anno, 2 piccoletti di Pordenone, come il Carlesso. Voi no, siete ben piantati, come l'Attilio. Di dove siete voi? De Pordenone. Ah, Pordenone, ma non è pianura laggiù. Sì, ma c'è il Biri laggiù, Biri da Birigola, Lucertola, perché Raffaele Carlesso, Comici, Cassin, Carlesso sulla roccia, era svelto come in una Birigola, il Biri. Ti vende i jeans e ti manda ad Ardago e quando ritorni e gli racconti che hai scalato le sue vie sulla Falesia, di Valgranda ti manda sulla Trieste, Carratù, Sisto, Stenio, i fratelli Stanchina e quest'anno Doimo e il Brusa, tutti con i jeans di Carlesso e la Trieste in tasca. E voi due? Chiese il gestore gettando un'occhiata ai nostri nomi scritti sul libro del rifugio. Noi due latissi, racconterei. E di tante altre meno note o blasonate vie che portano su cime come lo spigolo Glemina, da cui si domina Gemona, Glemina, appunto in friulano, il cammino Terschak alla testa del Bartoldo, da cui si domina la conca di Cortina, come pure da Punta Fiammes, salita e risalita ad ogni inizio di stagione lungo lo spigolo Iori. Il dietro consiglio dall'Oglio alla cima da lago, di cui sorprende l'uscita tagliata con la squadra, così che sembra di arrivare sul terrazzo piatto di un edificio urbano. La Glutz Demetz alla seconda torre del Selle, i canaloni di neve, lo Schuster Moser, il Menini, che vuol dire Popera e Antelao. saliti correndo come gatti con due piccozze e niente corda, e le cinque torri, di cui non ricordo mai quante ne ho salite, anche perché dici cinque, ma ne conti almeno 12. Noi due, Mario ed io, intendo, insieme anche sul Triglav, dove incontrammo Zlatko, tedesco, figlio di emigranti sloveni. Lui ha 67 anni, lì sulla cima, per la 25esima volta, a celebrare il suo personale giubileo, trascinando con sé un malmostoso ragazzino, figlio di amici suoi sloveni, lì ad aprire per la 25esima volta alla porta dello Sputnik, quel curioso ricovero a forma di missile che sembra uscito più dalla matita di Walt Disney che dalla testa di Faraday, sebbene chiunque, per quanto nella scienza possa confidare, si guarderebbe dall'entrare in quella scatola di latta durante un temporale. Ma quel giorno le nuvole erano qualche decina di metri sotto, assiepate come una folla sotto il palco, pronta ad ascoltare Zlatko, un anno in più e qualche dente in meno, che racconta la sua prima volta sul Triglav, da Francoforte in bicicletta e poi su in cima, dove lo sorprende una vista leopardiana senza fine oltre l'orizzonte, dove il cielo avvolge il mare. E quest'altra volta, a 40 anni, salito di notte per essere all'alba sulla cima e illudersi ancora di avere il giorno e la vita avanti a sé, e la più triste, a 65 anni, con l'amico di molte fatiche che pago dell'ultimo sogno, muore al rifugio la sera dopo. A sentirlo raccontare sembra che a Zlatko i ricordi affiorino come le cime del mare, dal mare di nuvole che poche decine di metri più sotto lambisce la punta del Triglav. Più che uno scoglio siamo una zattera in movimento, il Mangart, a dritta lo Jalovec e il Razor, dovremmo accostarli di prua, e in fondo la cima innevata del Grossglockner, ma forse è solo uno sbuffo di vapore, come le parole di Zlatko sono sbuffi di umanità destinati a confondersi nell'oblio e nell'indifferenza, o a perdersi nei mille rivoli che scendono dalla cima quando si scatena il temporale. Ed io, al sicuro del Vodicova Coccia, penso che abbiamo fatto bene a scendere giù per il piccolo Triglav e la cresta del Vogodin, stanchi sì, ma non quanto come quella volta lungo la discesa della Tofana di Roches, reduci dall'interminabile via di Mai, Otvos, Verzi e Siorpaes, salita brillantemente per le prime 10 lunghezze, poi sempre più lenti, dovendo adattare l'ampiezza dei tiri a quella della corda che una scarica di sassi aveva tranciato a metà, rammentandomi quel fatto della primissima via ripetuta una decina d'anni prima sul Monte Tremolo, una via di Carlesso, su cui avevamo voluto, il Brusa ed io, inaugurare la nostra esperienza alpinistica, una via di Carlesso con tanto di chiodo a segnare l'attacco, e quel chiodo, dopo un tanto di tempo passato a girovagare alla sua ricerca, lo trovammo ed era sicuro che era il chiodo piantato da Carlesso 50 anni prima, e ci sfiorò l'idea di portarcelo via come ci meglio, ma poi, per rispetto al vecchio alpinista, scacciammo l'empio pensiero e prendemmo ad arrampicare su quel terzo grado di sfasciumi e facili roccette che diventava quinto, tanto le pietre erano precarie, e non sapendo come fare per evitare che al secondo arrivassero i sassi smossi dal primo, mettemmo la corda al sicuro nello zaino e prendemmo ad arrampicare uno a fianco all'altro, e non molto diverso fu arrampicare il Cimon dei Furlani, che al Tremol sta di rimpetto e che non su tremule rocce ti costringe ad aggrapparti, ma sui ciuffi d'erba e rododendri che lì crescono chissà come anche sugli strapiombi, mentre di rododendri sul traverso della Cassinga la Piccolissima non ce n'erano, ma buoni appigli sì, come pure sullo Spigolo Giallo il giorno dopo. Quell'estate gloriosa che immaginavo dovesse ripetersi di anno in anno nel futuro a venire, che invece fu l'ultima stagione di una vita che si chiudeva per lasciar spazio a un lungo, silenzioso mezzogiorno di lavoro e famiglia, in cui la vita fluì tenue tra i sassi come l'acqua garrendo in picciol suon di cetra. Un mezzogiorno in cui non mancai, come detto, di portare i miei figli non all'ombra della Gil du Midi che ispirò il Carducci da Courmayeur, però, ma a quella del Piz Pichadou che cade sulla ladina Val di Mezdi, mezzogiorno, mezzogiorno sempre, mezzogiorno lungo d'attesa nel gran cerchio dell'Alpi, sul granito squallido e scialbo, su ghiacciai candenti regna sereno, intenso ed infinito nel suo grande silenzio il mezzodì. Pini ed abeti senza aura di venti si drizzano nel sol che gli penetra, sola garrisce in picciol suono di cetra l'acqua che tenue tra i sassi fluì. Carducci. Ciò nonostante nonostante le molte escursioni arrampicate portate a termine con i miei figli piccoli, i versi del Carducci sono metafora di quel lungo alpinistico Meridjar che si interruppe molti anni dopo al tempo delle barbe grigie, l'accordata che mi unì a Paolo Volonté per un paio d'anni, quando sulla soglia dei 60 anni ci togliemmo alcuni sassolini dalle scarpette. Piz Prevat, Agil Cru, Punta Albigna, Agil Dulindex, Le nuvole del Nivolet e del tentativo di scapucciare il Petit Capucin, dove toccammo solo i primi chiodi lasciati da Gervasutti nel 46 a 3500 metri, ma fummo ugualmente paghi perché, come ebbe a dire Walter Bonatti in Ritirata dal Bianco, capitolo di Montagne di una vita, tutto sommato, raggiungere la base di una via sul bianco può essere considerata un'ascensione di alta montagna. Noi chiodi ce l'avevamo, quella di toccare i chiodi dei grandi alpinisti, anche i chiodi lasciati da Guido Rossa, il sindacalista alpinista vittima delle Brigate Rosse nel lontano 79. Anzi, li usammo per fare sicura a Rocca Aperti e quelli di Cassin alle Corna di Medale, che per tutto un anno, 25 anni prima, nel 1992, avevo osservato dalla finestra del mio studio di psicanalista di bambini a Lecco, tra i quali ricordo un piccolo che in seduta disegnava angosciati alpinisti appesi alle pareti sulle quali il padre lo trascinava nel fine settimana, quelle della Grigna e del Resegone, sulla cui cresta 27 anni più tardi portai Tito legato a uno spezzone di corda arancione, inaugurando una nuova stagione di arrampicate che ci videro sulla Dolomia del Castello, del Sief, del Col di Lana, incordata sull'immancabile Sas della Strie, sulla Via delle Guide, alla Grande delle Cinque Torri e sulle normali di Putia, Sassonger, Pitzboes, et Sass, Spitz da Cir, Spitz da Lec, Lagazuoi, Sas de la Cruche, Champagny, Spitz Lec Glacch, Antersach, Paradei Jai e Faloria lungo la ferrata che si vantava ad essere la più esposta da un pezzo e d'Alta Badia. E delle 100 vie sono arrivato a 96 che sono rimaste fuori le cime del Bernina, del Cevedale, Punta Gnifetti, dove salimmo che era pomeriggio inoltrato, perché il rifugio Gnifetti, dove pensavamo di pernottare, non con Tito ma con i miei compagni d'allora, Cesco, Brusa, sembrava un rifugio in effetti un treno di Bombae con gente accampata dentro e fuori, e l'alternativa era tornare a Punta Ingren, ma noi decidemmo di proseguire, così che, lasciato il rifugio in effetti sul ghiacciaio dell'Is, Cesco era avanti a far l'andatura e io una decina di metri indietro a far l'elastico con chi rimaneva si attardava, e sul colle dell'Is, che eravamo sgranati come un rosario ma belli distanti l'uno dall'altro, tanto che quando fui sulla sella vidi Cesco già sull'ultimo strappo, 900 metri in poco meno di 2 ore, lui poco più di 2 ore, io, mentre gli altri arrivarono col buio, e Cesco scese fino alla sella per caricarsi lo zaino dell'ultimo che arrancava, e come previsto la notte non dormimmo e la mattina la nausea non ci consentì nemmeno di mangiare, ma fu comunque una scelta felice perché evitammo di trovarci in coda quella lunga serpentina di persone che la mattina dopo andava in senso inverso e saliva mentre noi scendevamo a valle di corsa, ma non come dei runner colorati e disperati, ma con l'arroganza di chi ha 20 anni e si sente in buona forma. In buona forma eravamo 2 giorni prima di corsa, saliti di corsa in cima al Cevedale, perché di corsa andavamo in quegli anni, giù per canaloni, ghiaioni e sentieri, di corsa su per le normali a far dislivello, di corsa su e giù da Cima Manera per essere a casa in tempo per il pranzo, con i libri sotto braccio e l'aria di chi ha passato una pigra e noiosa giornata sui banchi di scuola, ma chissà come ha la pelle rossa bruciata dal sole di primavera. E anche di questo ho fatto nel tempo metafora di quegli eventi che nel corso della mia vita mi hanno visto minacciato e ferito, difeso, allerta, aggredito, travolto, tradito e poi in salvo, riscattato, scampato al pericolo, e ancora racconterei dentro e fuori di metafora come passai oltre gli strapiombi della vita da cui stavo per cadere ma non caddi, come sul fatidico passaggio della Carlesso alla Torre di Valgrande, sulla fessura sovrastante o parimenti sul tetto della Irma al Piz Chavazes, proprio mentre vedevo e sentivo a pochi metri di distanza quel padre, tale Laio, pare si chiamasse, precipitare sul figlio Edipo ancora preadolescente. Grazie. Oh, man. Dopo, diciamo, dopo una pausa, dopo avervi steso con, no, bellissimo, con invece Stefano, monologo, non avevo dubbi, scrivi molto bene. Tu hai in mente delle domande o sì, vado? Raccontaci ogni avventura separatamente per filo e per segno. Ogni avventura separatamente, sì, così facciamo. Facciamo notte. Non notte, no, facciamo Natale. Domenica prossima, sì. Allora, per associarmi a quella di Giovanni, in realtà io ti avrei chiesto, appunto, visto che racconti di tante montagne e di tante esperienze che hai fatto, se ce n'è stata una in particolare che, a cui sei legato in senso positivo o negativo. Una montagna, diciamo, a cui sei particolarmente legato, se si può dire, se può dire. Più legato, sì, sono legato di tutte, perché... più legato di tutte è una montagna, si chiama il Sasso della Strega, il Sas della Stria, che sta sul Passo Falzarego, tra il Passo Falzarego e il Passo di Valparola. E sono legato a quella montagna, che si può salire dal versante nord lungo un sentiero che poi si infila dentro alle vecchie trincee della Prima Guerra Mondiale, e poi ci sono delle scalette e infine si arriva in cima, oppure si può salire da sud lungo una via non difficile, comunque di terzo quarto grado, oppure si può salire da ovest lungo una ferrata che hanno aperto non molto tempo fa, oppure si può anche attraversare lungo una galleria di guerra, salire lungo una galleria di guerra che spunta poi a tre quarti, diciamo, della salita. E sono affezionato a quella montagna perché vi ho portato i miei figli e toccherà anche a Nino, probabilmente, se le forze me lo consentiranno, quando sarà in età. Perché il nome è molto evocativo, no? Il Sasso della Strega, e quindi salendo con Alessia e Matteo quando avevano pochi anni, 4, 5, insomma, dovevo raccontare, perché in montagna si va di fisico, di muscoli, di gambe, no? ma si va soprattutto di testa, e la fatica la si inganna o la si integra, insomma, attraverso i racconti, attraverso il mito, la favola, attraverso la storia, e raccontando, parlando, appunto raccontando delle storie, la fatica non si sente più e si fa un sacco di strada, perché metaforicamente e non metaforicamente la cultura, la narrazione, il racconto davvero fanno fare tanta strada, e per quello sono molto affezionato, quindi sono più affezionato a questa montagna. Poi vabbè, no, ma tutto quello che ho citato sono chiaramente affezionato, perché sono... Ma a proposito di fare molta strada, da quello che ho sentito hai spaziato tutto l'arco alpino, tutte le quote, tutti i tipi di roccia, di ambiente. Invece, riguardo all'ambiente, preferisci comunque la Dolomia o del Sasso della Strega, o hai anche qualche altro? No, la mia roccia preferita è sicuramente il calcare, perché il calcare ti regala sempre un appiglio buono. Fosse anche un buchetto per mettere un dito nel momento in cui senti che non, no, che non sai proprio che pesci pigliare, il calcare ti regala la possibilità di andare su. Però anche lo gneis è piacevole da arrampicare. Però insomma, in realtà non è che faccio le classifiche. È bello essere in montagna, insomma. Ecco, su questo ti volevo chiedere, che è un po' anche il motivo per cui forse abbiamo un po' avviato questa rassegna della montagna analoga, che appunto prende il nome proprio anche da un libro e che è ormai la mia domanda a tutti i nostri ospiti, e che si lega anche un po' al discorso che hai appena fatto sul fatto che la montagna ha tante sfaccettature, no? Vissute in questo senso, quindi ha il fascino da una parte di quel senso di libertà, di contatto con la natura, così come, e mi sembra anche molto evidente dal racconto che ci hai letto, è anche una sfida, quindi come dire, ti pone anche di fronte a metterti un po' ai limiti sia fisici che mentali, no? In certe situazioni anche un po' difficili, come quelle che insomma sono uscite fuori dalle parole che hai letto. Quindi diciamo, ha sia un lato minaccioso, se così si può dire, che affascinante, e quindi, siccome hai anche forse un occhio più introspettivo sull'essere umano per il tuo lavoro, nel libro della montagna analoga alla fine appunto c'è un dialogo tra, diciamo, il narratore e i personaggi, in cui ci si chiede il motivo perché si va in montagna, no? Cos'è alla fine, non è solo, cioè, come dire, la scampagnata, può anche essere la scampagnata, però tendenzialmente appunto magari chi lo fa con una certa passione e diciamo lo porta avanti negli anni nella vita, magari ha anche un interesse diverso nell'indagarsi in quel tipo di dimensione. Quindi Bella domanda, impegnativa, no? Allora io cerco di evitarla dicendo che per noi, insomma, che per uno psicanalista qualsiasi attività si intraprenda, che sia di lavoro, certo, qualsiasi attività ha un doppio risvolto, no? Un risvolto è quello di vivere, di procurarsi di che vivere, ma l'altro risvolto è che qualsiasi attività, qualsiasi scelta si faccia, è di tipo difensivo. Noi facciamo qualcosa per riuscire a difenderci dall'angoscia, quella più nascosta, meno evidente, che però ci accompagna lungo tutta la vita, e che è l'angoscia di morte, l'angoscia di, no, di perdere la vita. E l'altra angoscia, non meno importante, che è l'angoscia di separazione, l'angoscia, no, di rimanere soli, di veder rompersi i legami affettivi, i legami sociali. E quindi anche per la montagna vale questo, no? Noi andiamo in montagna con mille motivazioni, alcune sono, come dire, sovrastrutturali, altre sono proprio, hanno a che fare proprio con il riuscire a contenere queste angosce. Questo lo si può fare in un modo o nell'altro. C'è chi va in montagna in compagnia e vuole essere in compagnia, e c'è chi va solo. Ma alla fine la funzione di, no, di stare più con se stessi oppure più con gli altri può essere la medesima. Certo, poi si può essere più analitici e capire perché in un certo momento si va a sfidare se stessi, a cercare, no, un limite, che poi anche questa cosa del limite no, la dice lunga anche la scelta dell'oggetto con cui vai a confrontarti, no? Voglio dire, Reinhold Messner va a cercare il suo limite in Himalaya, Fregonese va sul monte Fajerón, che è una cima che si sale, che collega la Valcellina e l'Alpago, una cima assolutamente minore, forse neanche una cima, una cresta, fatta di è una montagna che, appunto, come dice il termine Fajerón, che si sfaglia. E quindi Messner, insomma, una figura Messner, quelli come lui, insomma, personaggi un po' tutto d'un pezzo, no? Con un io molto forte, no? E invece sul Fajerón vai a confrontarti in modo più, diciamo, musiliano, con l'io diviso, con l'io che si frammenta e che tu devi tenere insieme, no? E questa è una cosa, è un compito che abbiamo da quando nasciamo, anzi, ancora prima di nascere, no? Perché noi dobbiamo mettere insieme, no? Noi viviamo, insomma, nell'illusione anche di, no? Di essere un'unità, ma questa è una condizione che non è assoluta e non è continua, è facile anche perderla, soprattutto quando siamo invasi dall'angoscia, dalle paure, no? quando raccontavo, no, di quella scena, che ahimè non è letteratura, non è un'invenzione, no, di quest'uomo che arrampicava col figlio e che scivola, cade, poi muore, e a quel punto tutta la baldanza, no, di tutti noi che arrampicavamo, eravamo in quattro, arrampicavamo nella via vicina, e si sfalda, no? E a quel punto le gambe vanno un po' per conto loro, il pensiero va un po' per conto suo, no? Si rompe una bolla e prendi consapevolezza di quanto fragile sei, e devi fare un gran lavoro per rimetterti insieme, no? Ma questo lavoro lo fa quotidianamente Nino, ma da prima. E questo, ecco, a proposito dei tanti significati della montagna, se avete pazienza vi leggerei una cosa. Perché a cavallo del nuovo millennio, più o meno all'età in cui Dante si ritrovò nella selva oscura, io invece mi trovo in un ambiente totalmente diverso, asettico, altamente tecnologico, inondato da luce bianca artificiale per quasi tutte le ore del giorno e della notte, densamente popolato da persone perennemente attive, a volte in modo frenetico, soprattutto quando dalla tempestività, precisione e professionalità del loro agire dipende una vita umana. E vi è in quel luogo un esasperato controllo sulla vita organica, sui processi chimici e biologici che la rendono possibile anche in condizioni estreme, ma c'è una quasi totale mancanza di rappresentazione della vita mentale delle persone per le quali tutto quell'apparato è stato pensato e attivato. E in quel frangente io vengo chiamato, e mi piace pensare che sono stato scelto o chiamato per colmare quella lacuna e per introdurre delle forme immaginarie e simboliche in grado di rappresentare l'attività mentale che, penso io, necessariamente deve corrispondere ai processi organici di cui tutti lì sembrano sapere molte cose e di conoscerle molto dettagliatamente. L'ambiente di cui parlo è qua vicino, il reparto di patologia neonatale e di terapia intensiva neonatale dell'ospedale dei bambini di Milano, il Buzzi. E che è di per sé quanto di più lontano e diverso ci sia da uno scenario alpino o himalayano, no? Ma dico, voli pindarici, sì, ne ho però lo feci già quella volta. Ma perché, se consideriamo lo stato mentale di due persone che si trovano nelle condizioni più estreme che questi due luoghi, la montagna e l'ospedale, possono presentare, scopriamo delle analogie. Suggestivamente potremmo dire che siamo in ambienti in cui è facile perdersi, in stati emotivi amniotici e indistinti, ambienti in cui è difficile distinguere ciò che è buono da ciò che è cattivo. Più di qualche volta, entrando in quel reparto, mi sono chiesto: ma dove mi sono venuto a cacciare e perché? La stessa domanda che ci si pone quando ci si ritrova in mezzo a una parete a strapiombo, nel bel mezzo di un passaggio in cui testiamo i limiti delle nostre capacità, o più semplicemente quando l'ambiente montano, mutando all'improvviso le condizioni atmosferiche, dimostra tutta la sua pericolosità. Ecco, quando mi trovo in reparto a tu per tu con bambini che non dovrebbero essere lì, ma ancora in grembo alla madre, mi viene altrettanto naturale chiedermi cosa mai avvenga nella loro mente, come potrei io entrare in contatto con i loro stati mentali. Attorno a me ci sono adulti, genitori, infermiere e medici che escludono la possibilità o sono di una qualche vita mentale in quei bambini, oppure ammettendola tendono a ignorarla perché non sono in grado di rappresentarsela o descriverla. Per tanto tempo, figuriamoci, si è persino escluso che i neonati prematuri fossero in grado di provare dolore a dispetto dello stress che mostrano quando sono manipolati per i trattamenti terapeutici che li tengono in vita. Ma ora, allora, nel 2000, c'erano evidenze biologiche che anche a quell'età, espressa ancora in termini positivi di età gestazionale, ma negativi rispetto alla data in cui sarebbero dovuti nascere, essi non solo provano dolore, ma se sopravviveranno, quel dolore condizionerà tutta la loro vita. Dunque io sono lì come un interprete che non parla nessuna delle due lingue da cui e in cui deve tradurre dei significati che non conosce. Mi viene in aiuto la mia esperienza di alpinista, cioè non propriamente la mia, a quella, anche soprattutto quella di cui ho letto sui libri e di cui ho sentito parlare e solo in parte a volte lambire, sono riuscito a lambire, mentre sono lì che osservo un neonato di meno di 30 settimane di età gestazionale, mi torna in mente la descrizione delle sensazioni provate dalla mente umana in situazioni limite, quelle che Messner definisce le sensazioni che descrive Messner parlando della dead zone, no? La zona della morte, quella sopra gli 8.000 metri. Reinhold descrive la sensazione di essere esausto, la sensazione di fame d'aria, il sentimento di andare a pezzi, descrive la sensazione che la mente sia morta. Oppure, descrivendo l'esperienza vissuta in Antartide nel libro Oltre il limite, Messner parla del whiteout, no? Un fenomeno su terreno innevato che rende impossibile distinguere i confini tra terra e cielo e che provoca una sensazione di straniamento. E analogamente potremmo parlare di white-in, cioè un fenomeno che riguarda lo stato di non integrazione del neonato che gli rende impossibile distinguere i confini tra sé e ciò che è altro da sé. E quando io provo a descrivere in questi termini i possibili stati mentali dei neonati, i genitori a un certo punto cominciano ad ascoltarmi e piano piano la loro attenzione si sposta dalle macchine a cui è attaccato il neonato e che registrano i valori vitali, battito, livelli di ossigeno, anidride carbonica, frequenza del respiro, attività elettrica cerebrale, e spostano lo sguardo al neonato stesso, cioè fino a quel momento non riuscivano a stare a prendere contatto col loro bambino, no? E si aggrappavano davvero come degli alpinisti sull'Himalaya, si aggrappavano, no? Alle macchine. E anche i medici e l'infermiere iniziano a guardare il bambino con diverso interesse. Io me li immagino tutti come componenti di una spedizione persi nella bufera antartica o incordata, avventurarsi nella zona della morte, condividendo col neonato la fame di ossigeno, il senso di spossatezza estrema, la sensazione di essere totalmente disorientati e sul punto di frammentarsi. E in questo stato mentale, cioè nel tentativo di riuscire a immaginarsi cosa succede nella mente del neonato prematuro, ma anche del neonato un po' più grande, in questo tentativo lo sguardo all'improvviso si fa più umano, meno professionale, meno scientifico, più umano, più comprensivo. E non lo so se questa analogia poteva essere appropriata, però ha fatto questo effetto, insomma, ha permesso questo. E le infermiere che passavano, che si fermavano, guardavano, e poi guardavano me e dicevano: ma cosa guarda? E io dicevo: no, perché mi sembra che quando qualcuno si avvicina alla culla succeda qualcosa, il battito aumenta, ma chissà, forse. Beh, insomma, in quel reparto poi sono successe tante cose, è stata introdotta la kangaroo, no? Cioè la possibilità che i genitori tenessero questi bambini davvero fragilissimi, no? Sul proprio corpo, ed è cambiato molto, è cambiato il clima, insomma, sono successe tante cose. Ecco. Grazie. Non so se c'è qualcuno. Beh, mi sposto qua. Se c'è qualcuno che dal pubblico vuole fare delle domande. Rocco, è il tuo momento. No, c'era un ragazzo che voleva farti delle domande, ma è sparito. È sparito. Giovanni. Magari vuoi approfondire, in verità hai già detto tanto, ma essendo quando una passione diventa forte, come mi sembra dai tuoi racconti, possa essere la montagna e influenza molto anche il resto della propria vita, se hai altre analogie o spunti di riflessione su come si sono influenzate, ecco. Quindi su come hai portato la tua vita in montagna o la montagna nella tua vita. Mi ha fatto pensare anche prima quando hai parlato di vari amori portati in parete che però le consideravano orride e tutte queste sorte di diatribe con tradizioni, contraddittori. Sì, mi immaginavo una domanda del genere, mi ero preparato, e quindi vi leggo un altro capitoletto che ho intitolato La lotta con l'Alpe. No, perché io mi domandavo, no, ma è vero che tutto è analogo, tutto si corrisponde, no? Ma poi mi chiedevo, ma in virtù di un elemento comune, universale, o di un nesso appunto che costruiamo nella nostra mente tra enti diversi e distanti tra loro, no? Cioè questo nesso, psicanalisi, no, si chiama legame, è una funzione della mente che rimanda alla relazione primaria, quella tra il bambino, no, e l'oggetto che si va costruendo nella sua mente fin dall'esordio dell'esperienza percettiva, cioè, no, alla prima attività neuronale che segnala una variazione di stato, siamo soliti datare anche l'inizio della vita mentale, cioè di una rappresentazione dell'esperienza provata, no, in quel momento. E che pensiamo che avvenga ancora in utero, no? Attraverso appunto gli stimoli esterni e gli stimoli invece proprio recettivi, gli stimoli interni. Quindi mi sono detto, ma te, no? Anche per rispondere alla domanda di prima, ma te, Stefano Fregonese, la montagna che ti rappresenta? Che vai cercando tra rupi e valli in fior da 60 anni a questa parte? 63 per l'esattezza, certificati dall'atto di iscrizione al CAI che ha preceduto quello di iscrizione all'anagrafe, perché mentre mio padre si arrabattava, insomma, si districava tra gli uffici dell'anagrafe di Treviso, dove sono nato, e di Pordenone, dove loro erano residenti, mio nonno Alfredo mi fece nella culla, credo ancora in ospedale, una foto con la sua macchinetta a soffietto, che poi io tanti anni dopo imparai, no, neanche tanti, insomma una decina di anni dopo, un po' meno, 8, insomma, quando iniziai ad andare in montagna con lui, imparai a usare. mi fece questa foto e si fiondò alla sezione del CAI di Treviso e mi iscrisse come socio aggregato. E da lì, come da tesserina, intrapresi la mia lotta con l'Alpe. E questo motto, apparentemente pugnace e bellicoso, di Guido Rei è stampato su tutte le tessere del club alpino. Io non credo di aver mai inteso di andare in guerra mentre andavo ad arrampicare, sebbene gran parte delle mie ascensioni, come avete capito, si siano svolte in Dolomiti, l'anfiteatro naturale dove andò in scena la Grande Guerra e dove, per ragioni museali e turistiche, a ogni piè sospinto, con fatica sulle crode, ti viene ricordata la guerra del 15-18, la mattanza del 15-18. Poi teniamo anche conto, no, che come ricordò, come scrisse Primo Levi, ci fu un periodo in cui l'espressione andare in montagna e entrare nella resistenza furono sinonimi durante appunto la Seconda Guerra Mondiale. Poi, per dare un senso diverso a quest'inno del CAI, mi vennero in aiuto più tardi Sigmund Freud e Gianni Rodari, il primo suggerendo che la vita stessa sia una lotta incessante tra libido e destrudo, tra eros e thanatos, tra pulsione di vita e pulsione di morte, il secondo affermando che l'apprendimento nasce nella lotta. Dunque, la vituperata frase di Guido Rei va meglio intesa all'interno di un'analogia tra le forze che muovono verso la vita e la conoscenza e quelle che muovono verso la montagna, non contro di essa. Ricordiamoci che in entrambi i casi ci muoviamo all'interno di una dialettica tra vita e morte, tra conoscenza e ignoranza, perché si va in montagna per scoprire, per conoscere, per imparare, che poi sia, no, qualcosa che sta all'esterno, che sta all'interno, comunque c'è un istinto di conoscenza che muove i nostri passi. E analogamente alla quotidiana lotta che conduciamo per vivere e apprendere a vivere meglio, anche in montagna tendiamo a riprodurre i termini di questa lotta. Quindi non è il termine lotta da biasimare, ma il modo in cui ciascuno poi intende la lotta e la proietta nel proprio rapporto con l'ambiente, no? Se è una lotta distruttiva, una lotta competitiva, no? Oppure una lotta appunto per conoscere, per crescere. Guido Rei, a leggere tutta la frase, lo intendeva in termini positivi, anche se si espresse nei termini della retorica facilmente travisabile del suo tempo. No, perché lui dice: io credetti e credo la lotta con l'Alpe, utile come il lavoro, nobile come un'arte, bella come una fede. Non c'è guerra. Ecco, un ulteriore piccolo inciso. Io una fede non ce l'ho, d'arte ne so poco, e quella della scrittura la esercito a livello amatoriale. Sull'utilità del mio lavoro ho quella giusta dose di dubbio che permette di mantenere un atteggiamento critico e tenere a bada saccenza e onnipotenza, che ne pensino i miei figli, mia figlia. Di sicuro il lavoro è stato da sempre per me una lotta quotidiana sotto tanti aspetti, e proprio come l'andar per crode, però appunto come l'andar per crode, anche il lavoro è una lotta che dischiude anche all'incantamento, al piacere, alla scoperta. Ecco. Grazie. No, non saprei cosa aggiungere, perché mi sembra che tu abbia già ampiamente risposto a tante delle mie potenziali domande. No, poi in un modo anche molto bello e poetico. Per cui non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Oh. Io, se avete ancora... Ah, vai. Ok, scusa. Puoi venire qui vicino? No, forse ci arrivo. Scusami. In realtà la mia era solo una curiosità, visto che mi interessano le relazioni anche tra esseri umani, che cosa le ha insegnato la montagna sulle relazioni sentimentali. Quindi se abbiamo... Certo. ma guarda... Se uno va a guardare le vicissitudini del mio stato di famiglia, dice che non ho imparato niente, ed è probabile che sia così, no? Ma senti, mi svicolo via dalla tua domanda, però ci tenevo a leggervi un altro piccolo racconto che parla di relazioni sentimentali e di una particolare relazione sentimentale e che non fa parte del libro che ho scritto tanti anni fa che tu avevi per le mani, insomma, vabbè, quella, una corda ben fatta su, che parla comunque di una relazione amicale molto forte che la montagna ha, in qualche modo si è messa un po' di traverso. Questo nuovo libro che è dall'editore, adesso vediamo, invece parla di una pittrice, scultrice minore perché sconosciuta o non conosciuta, una pittrice di Vigevano e che si chiama Grazia Rolando, e questa è la storia che ho scritto, e anche poetessa, ha scritto dei versi, e partendo da una fotografia e da una sua poesia, io poi ci ho ricamato un po' su la poesia, che è anche un po', insomma, una poesia probabilmente adolescenziale, insomma... apparentemente anche, insomma, non perfetta nella... Comunque dice: noi siamo quelli di ieri e la speranza ci attende a un angolo di strada. È perduto che anonimo si specchia nel buio, spaccare il cuore con i punteruoli dell'indifferenza, e chissà se è una parola questa lenta e pulsante goccia di vita che ci striscia dentro inarrestabile. E la storia è questa. Grazia conosce Walter al corso di arrampicata. Rosanna, la sorella minore che è ancora in vita, dice che Grazia quella primavera ha 23 anni. Può essere allora la primavera del 62, può essere quella del 63. L'archivio del CAI dice che i primi corsi di alpinismo sono stati istituiti nel 1965, almeno quelli ufficiali. Sappiamo che già se ne tenevano organizzati localmente presso le sezioni o presso i rifugi. Se il CAI sente il bisogno di mettere il cappello di ufficialità, vuol dire che il fenomeno è maturo e si sta espandendo e va istituzionalizzato. Dunque diciamo che nella primavera del 63 Grazia si dedica all'arrampicata in Grigna. L'istruttore è un alpinista d'eccezione, un nome che spicca nella rosa ristretta dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, Walter Bonatti. Nel 1963 Grazia ha 23 anni, va per i 24, Walter 33. Grazia tenta di bucare il guscio di una tarda adolescenza imprigionata dal perbenismo moralista e sessuofobo della provincia, Vigevano. Walter ha già spaccato il mondo a metà. Da una parte c'è lui, dall'altra tutti gli altri, i vecchi, i corrotti, i fascisti, gli opportunisti, i detrattori, gli invidiosi. Grazia è giovane, è bella, è contorta, è arrabbiata. Walter, nella sua ancora giovane vita, ha già avuto e dato in pari proporzioni, sempre a livelli estremi, vita, morte, tragedie, fama, imperitura. Ha compiuto grandi spedizioni alpinistiche extraeuropee, la prima sul K2 nel 54, l'ultima in Perù nel 61. Nello stesso 61 sopravvive alla tragedia del pilone centrale del Frenay. A fine gennaio del 63 ripete in prima invernale la via Cassin a Punta Walker, la vetta più alta del massiccio delle Grand Jorasse, sul Monte Bianco. A fine agosto salirà la punta dell'Innominata, sempre sul Bianco. Grazia vive una vita faticosamente fatta di immagini e parole taciute che tentano la strada della poesia. Una vita innominata incombente, come si trova scritto in un verso di una sua poesia, prospettiva, quasi un poemetto. Con le parole Grazia cerca di tenere insieme il corpo dei suoi pensieri e dei suoi desideri. Un'altra sua poesia, che si intitola proprio Le parole, comincia con una locuzione piena di disperata speranza. Oh, ascoltatemi, dovrei dire qualcosa di importante, ma sono soltanto parole. E poi va avanti e termina in una specie di stream of consciousness di Joyce, comunque flusso di coscienza sulla relazione parola-corpo. Dice Grazia, parole... Parola denti, parola bocca, parola piede, parola mano, discorso soliloquio schizofrenico, non tollera cedimenti, parola piede ha dimenticato marciapiedi e strade, vuole solo campi, sentieri, montagne, parola mano si contrae, convulsa rapace, non già solo d'oggetti ma anche d'odio e vendetta. Quell'anno, il 63, Grazia si iscrive col fratello Adameto al corso di arrampicata tenuto da Walter Bonatti. Dice ancora Rosanna che Grazia, tornata a casa, quando toglie gli scarponi e i calzettoni, insieme a questi viene via anche la pelle e i piedi sanguinano per le orribili vesciche che si sono formate. Però Grazia non dice niente, nessun lamento. 15 giorni dopo i piedi sono guariti e lei è pronta a rimettere gli scarponi e tornare in montagna, e la storia va avanti così per molto tempo. Il piede che soffre e tace è una parola non detta. C'è come qualcosa che motiva la ragazza a camminare sulla pelle lacera, a seguire la parola piede sui sentieri di montagna al passo di Bonatti. A un certo punto però accade qualcosa. Se diamo retta alle parole di Rossana, dopo quella breve stagione Grazia smette di andare in montagna e di alpinismo non ne vorrà più sapere. Sempre ti fu precluso l'azzurro orizzonte e le lontane montagne accerchianti. Sono due versi conclusivi di una sua poesia intitolata Ragazzo. C'è una storia che sarebbe bello scrivere se non fosse frutto di mera fantasia, se almeno godesse d'un minimo supporto da parte della realtà e se non avesse come fondamento solo una fattualità negativa, una somma di eventi non accaduti, sicuramente non detti, taciuti. Sarebbe bello raccontare la storia, forse d'amore, tra una ragazza della Vigevano delle scarpe e dei padroni delle scarpe, la Vigevano delle mille fabbriche, nessuna libreria, e del fare soldi per fare soldi per fare soldi, racconta in un famoso e anche un po' famigerato reportage Giorgio Bocca, uscito sulle colonne del Giorno nel gennaio del 62, e della Vigevano dei romanzi ansiogeni di Lucio Mastronardi, il calzolaio di Vigevano, il maestro di Vigevano, entrambi usciti per Einaudi nel 62. Dicevo, la storia d'amore, forse, tra una ragazza di questa Vigevano e un ragazzo che non è più un ragazzo, un giovane operaio delle Falck, che non è più un giovane operaio, ma un uomo di 33 anni, che non è neppure un semplice uomo, tantomeno un uomo semplice. Ecco, sarebbe bello raccontare la storia di lei che cammina verso un angolo di strada, di Lecco, di Milano, della stessa Vigevano, dove ad aspettarla c'è una speranza. Di lui che dall'altro lato di quell'angolo di strada si avvicina nel buio poco illuminato dalla luce dei lampioni invece di quella accecante dei riflettori e della notorietà, finalmente anonimo, ma pieno di un'emozione per nulla anonima che lenta e pulsante si insinua nella mente e nel corpo della ragazza come una goccia di vita che striscia dentro, inarrestabile. Grazie. Qualcuno vuole fare un'altra domanda? Purtroppo non sono riuscito a sentire tutto. Puoi buttarti. Vabbè, siccome lo so. E con la montagna hai un rapporto principalmente. La montagna, dicevo, è un rapporto principalmente dovuto all'arrampicata o è anche un luogo in cui ti piace stare, fare passeggiate tranquille e viversela con calma? No, assolutamente sì, anche perché... No, ma comunque in tutto, cioè adesso è quasi un obbligo, non si va più ad arrampicare. Ultimamente vado con Tito, che è il mio terzo figlio, e comincia lui adesso a 13 anni, quindi mi lascia indietro e quindi però anche se andiamo a fare qualche scima, insomma, anche a lui piace molto camminare per il gusto di camminare, magari perdendosi nel bosco e poi insomma decidendo all'ultimo momento dove si andare su, giù, di qua o di là. E lui mi gratifica tantissimo perché poi tornando a casa dice che è stato molto contento, che gli è piaciuto molto. E quindi no, c'è proprio il piacere di andare a fare passeggiate o camminate, e ognuna ha un suo senso, insomma, c'è davvero la montagna ha questa capacità di, no, parrebbe di adattarsi al tuo stato mentale o emotivo. Ovviamente non, la montagna è lì, non è che ma ti offre davvero tantissime possibilità, anche magari quando scoppia un temporale, no? E che ti devi come c'è scritto sulla guida del Berti, quando parla del Popera, no? Parla dell'alpino Bruseguin, mi pare si chiamasse, no? E riporta le parole di questo alpino che disse, no? Che nella tormenta mi accomiatai spetando l'avventura. Ecco, andare in montagna, no, consente anche questo, no? Nei momenti in cui la vita ti è ostile, no? Tu vai in montagna come... e ti accommiati, no? Intendendo, no? Che trovi un rifugio e aspetti l'avventura buona o cattiva, ma insomma, no? Quella buona che torni il momento di ripartire. Quindi è importante, insomma, andare in montagna. Mi sembrano le migliori parole per concludere, invitandoci tutti ad andare in montagna e quindi a partecipare ai nostri passeggi sociali, giusto? Il nostro prossimo sarà? Non è un vero passeggio in realtà. Un passeggio, andiamo a camminare tantissimo, ben quasi un'ora, ma poi ovviamente chi vuole può perdersi in giro. Se avete altri interventi, poi voi fateli, non siate timidi, dobbiamo ancora indagare su tante cose. Andiamo a mangiare, intanto, permettiamolo sempre, che in ogni buon posto di montagna c'è anche un buon rifugio. La fatica fa venire anche un buon appetito, e la fatica che non faremo andiamo a Cascina Bagaggera, che hanno un sacco di capre sotto Lecco, quindi non siamo neanche propriamente in montagna. E, di fianco però c'è un grande parco con le famose piramidi di Montevecchia, che sono un po' al limite tra il complotto e l'archeopaleologia. E facciamo una passeggiata lì nel bosco, saliamo sulla piramide, andiamo a vedere il santuario della Beata Vergine del Carmelo, che è in cima a 180 gradini. E, 21 dicembre, partenza con calma, non avete scuse, a parte che è Natale, siete impegnati a fare un sacco di regali, si arriva in 45 minuti. E poi io a questo punto direi che dobbiamo in qualche modo trovare il libro sul sito dell'editore, che è Bolis, e leggercelo. Sono molto curioso, così magari a gennaio ne parliamo, quando andremo invece in Valtellina, che c'è probabilmente una mostra di foto e altro contro la gestione delle Olimpiadi e su come sono stati fatti i lavori e tutto quanto. Poi a gennaio, anche a febbraio, ci sarà la proiezione qua del Grande Gioco, un documentario su questa gestione dei lavori preparatori alle Olimpiadi. E secondo me il 2026 sarà in generale molto agronomico, binomio città-montagna, un po' politico, un po' agronomico, perché avremo anche degli ospiti che lavorano in aziende agricole in montagna. Tra l'altro oggi stavo cercando di convincere Rocco a venire, e, di cui potete assaggiare i suoi prodotti a partire da ora. Grazie Stefano.